America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We gather here today at a time of great challenges. And nearly one in ten of our neighbors is out of work. Healthcare costs are still rising for American families. Our spending has caught up with us, and our debt soon will eclipse the entire size of our national economy. La voce è di John Boehner alla Camera dopo le elezioni di midterm il 5 gennaio 2011. Continuo la carrellata dei fatti importanti di questo 2011. Vi farò una carrellata molto interna, molto americana, molto improntata sulla politica. Fra pochi giorni comincerà la stagione delle elezioni americane, il caucus dell'Iowa, subito dopo le primarie del New Hampshire, e poi via fino all'avventura elettorale finale a novembre, lo scontro tra il candidato che avrà vinto fra i repubblicani e il presidente in carica, Barack Obama. John Boehner rappresenta una rivoluzione, sembra un leader che controlla il Parlamento, o meglio la Camera repubblicana di cui è presidente, si commuove, piange, fa grandissimi pianti ogni volta che parla del sogno americano. In realtà ha una spina nel fianco. La spina del fianco è quella del movimento dei Tea Parties. The monetary system that we've had today has been based on stealing and lying. It's equivalent to counterfeiting. If you would be arrested for counterfeiting, why do we permit our government to commit the same crime? Passiamo all'8 gennaio. Una data direi abbastanza chiave, perché Gabrielle Gifford, una deputata dell'Arizona, Tucson, in un comizio viene ferita da un attentatore. Ecco che improvvisamente la polarizzazione ritorna. E un anno di grande polarizzazione, siamo usciti da elezioni, quelle del 2010, che erano state enormemente polarizzate, ciascuno come al solito promette di andare a Washington e di archiviare le differenze, di lavorare insieme, e poi c'è questa sparatoria, questo tentato assassinio. Poi si capirà che aveva sparato era un balordo, e però attenzione, perché era un balordo che aveva preso nota di certi slogan che in qualche modo il partito repubblicano stesso aveva messo in rete durante le elezioni dell'anno prima contro Gabriel Gifford. Dunque è stato un momento, devo dire, molto doloroso, anche perché sul piano simbolico, lo ricorderete, muore una bambina in quell'attentato, una bambina che era nata l'11 settembre del 2001. Per il paese il momento è difficile, è un momento difficile perché c'è la recessione, c'è la memoria di questa frantumazione di valori che sembra scuotere il paese, di questa polarizzazione fra i partiti, ed ecco che Obama decide di fare un discorso importante, il primo discorso importante di quest'anno. Chiede l'appoggio dei repubblicani nel discorso sullo Stato dell'Unione e celebra il momento Sputnik, un momento, dice, in cui noi tutti, come quando la Russia mise in orbita il primo satellite e noi ci sentimmo perduti, sembrava che la Russia conquistasse lo spazio e noi non potevamo far nulla, ecco, abbiamo trovato la forza di reagire. Io chiedo che ci sia nella nostra America questo momento Sputnik. A half a century ago, when the Soviets beat us into space with the launch of a satellite called Sputnik, we had no idea how we would beat them to the moon. But after investing in better research and education, we didn't just surpass the Soviets. We unleashed a wave of innovation that created new industries and millions of new jobs. This is our generation's Sputnik moment. Poco dopo, il 14 febbraio, presenta il bilancio federale del 2012. Ecco, di questo ho parlato con Alberto Alesina, un economista importante, professore a Harvard. Vi ripropongo quello che ho discusso con lui. Credo che sia molto positivo che Obama sia passato dalla retorica dello stimolo alla retorica dell'aggiustamento. Questo è il primo punto positivo. Il secondo punto positivo è che l'aggiustamento sia fatto in gran parte dal lato delle spese e non dall'aumento delle imposte, che l'evidenza dimostra che sia il modo migliore per fare gli aggiustamenti. E il terzo punto meno chiaro è se questi tagli mirati siano sufficienti nel lungo periodo a stabilizzare il bilancio. Il 10 aprile segna un altro evento importante che poi diventerà un tormentone. Si cerca un accordo sul bilancio, si evita la chiusura del governo, però è quello il giorno, il 10 aprile, in cui inizia un braccio di ferro sulla necessità di ridurre il debito pubblico americano, di ridurre le spese pubbliche americane. E i repubblicani cosa fanno? Dicono: benissimo, parliamone, però agganceremo questo accordo sulla riduzione del disavanzo pubblico all'accordo per innalzare il tetto sul debito. Il tetto sul debito scade a luglio, si pensa che ci sia molto tempo, ma le cose non si mettono molto bene e soprattutto S&P minaccia di togliere la tripla A agli Stati Uniti. Questo è il 18 aprile 2011, quando Standard & Poor's interviene sugli Stati Uniti. Uniti. 22 giugno 2011, repubblicani e democratici lavorano ad un accordo quadro. Obama vuole fortemente questo accordo, propone una gran quantità di tagli su spese sociali. Sarebbe un buon accordo per i repubblicani, che dovrebbero accettare di aumentare leggermente le tasse. Ma per i repubblicani è irrinunciabile, di nuovo la polarizzazione domina. La scadenza, che era a luglio, a quel punto, visto che non ci si può mettere d'accordo, attraverso qualche acrobazia tecnica viene spostata al 2 di agosto. Ho fatto una lunga chiacchierata su questo a suo tempo con Vito Tanzi. Vito Tanzi, ve lo ricordo, è stato il direttore della divisione fiscale del Fondo Monetario Internazionale. Adesso ti dico la mia preoccupazione, anticipando che sono pessimista per natura. Abito negli Stati Uniti da 50 anni e non ho mai visto un accordo così rapido e così importante, specialmente quando le divisioni dei gruppi sono enormi. Come sai, i repubblicani vogliono ancora abbassare le tasse, sebbene le tasse americane in questo momento sono a livello del 1960. I democratici vogliono ancora aumentare le spese, quindi c'è ancora una differenza molto grande. L'accordo quadro rischia di essere così generale di non avere denti, come si dice in inglese. E poi c'è il problema, come dicevo, che nella migliore delle ipotesi stiamo rimandando l'aggiustamento fiscale per 2 anni, con un deficit annuale di 10% e un bisogno enorme di prendere prestiti. Questo non mi sembra che sia qualche cosa che uno potrebbe essere ottimista. Nuovo discorso di Obama, 11 luglio, se non ora quando? Se non ora quando? Quando mai? I repubblicani rispondono di nuovo con un no. Il presidente cerca di essere il grande pacificatore, non ci riesce. Devo dire un fallimento in qualche modo della sua presidenza, ma è un fallimento che purtroppo era inevitabile. Lui aveva cercato un accordo durante una celebre partita a golf con Boehner, col presidente della Camera. C'era anche il governatore dell'Ohio, c'era anche il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden. Insieme pensavano di poter risolvere il problema, non ci sono riusciti. Ha colpito il Tea Party. Il Tea Party è stato incisivo, molto più incisivo di quello che si aspettava, e continua a polarizzare anche all'interno del partito repubblicano, nel momento in cui si deve scegliere il candidato da schierare contro Barack Obama. Mitt Romney dovrebbe essere il candidato di punta, il candidato prescelto, eppure Romney non piace ai Tea Party. Tea Party che al primo dibattito del 12 settembre si innamorano di Rick Perry, governatore del Texas, grande conservatore, cacciatore, devo dire conservatore repubblicano doc, e dunque Perry comincia a salire, tra l'altro ha una grandissima disponibilità di fondi. Però che succede? Succede che Perry continua a sbagliarsi, anzi devo dire che si comincia a chiedere come è possibile che sia diventato governatore del Texas. La frase più bizzarra, ve la ripropongo, fu quella durante un dibattito televisivo in cui disse, ma ve lo faccio riascoltare. It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the what's the third one there? Let's see. EPA? EPA, there you go. No, okay. Is EPA the one you were talking about? Or? No, sir. No, sir. The education, the commerce, and let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. L'altra scelta, Herman Cain, anche lui però viene travolto dagli scandali sessuali, diventa il numero due dopo Perry, sale improvvisamente, scende, l'afroamericano, il capo della Godfather Pizza, devo dire una combinazione molto molto bizzarra, diceva di non avere mai avuto esperienza politica, in realtà poi ci si accorge che era stato il capo della potente lobby dei ristoratori a Washington e dunque aveva le mani in pasta, altro che con le lobby, gli avvocati, i deputati, i senatori e chi più ne ha più ne metta. E poi ogni tanto, diciamo, cedeva a questa sua debolezza, le donne. In finale, a novembre, fine novembre, emerge Newt Gingrich, dopo che anche Rick Perry è stato buttato via, Herman Cain è stato archiviato, ecco che parte Newt Gingrich. And then we need from the very first day to implement decisively the reestablishment of an American exceptionalism that recognizes that power starts with you and eventually goes to Washington when necessary. Power does not start in Washington with a bunch of judges and bureaucrats dictating to you what you do. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, numero 2, countdown verso la numero 1. Vi ricordo, abbiamo avuto numero 5, Maroon 5, Katy Perry numero 4, Black Eyed Peas numero 3, numero 2, LMFAO, Party Rock Anthem. In the club, party rock, looking for your girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot, booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know, top jeans tattoo, cause I'm rock and roll. Half black, half white, diamond low, gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano, I got that devilish flow, rock and roll, no halo, we party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top, no. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani, ultima puntata del 2011. Goodbye and get going. America 24.